no, è che era giusto. Non è che mi sia esatto, sappiamo già che il numero 2 è quello lì, e per cui quello che mi piace più è tanto. Allora riesce bene questo? Tu hai messo la portata? Adesso è riuscito, adesso va benissimo. Ma c'è nessuno oggi, tutti a pannare al corazon. Mi piace il letto adesso, mi piace. Ma il 4 sei usato già, sempre se me lo vuoi dire. Il Midland, il Midland. Ah, ma il 4 bene sta andando? Sì, sì, ce l'ho parato. Sì. Sì, sì, va bene. Meglio. Risolto avere quel problema del microfono, sì? Già, se ne ho comprato un altro, adesso va meglio. Già va meglio. È meglio sì, allora. Ma vanno tutti bene, ragazzi. Vanno tutti bene, basta usarli bene, trattarli bene e durano un'eternità. Cioè, quello mio, è che l'ho usato più, è sempre fermo da parte. Così lo rovini, Giovanni, così fatto di cominciare tutto. Ehi, non se ne vai mai a pedì, capito, non è cosa dell'altro, è bello. Poco fa ne stavo provando uno, sento forse l'alimentatore magari è troppo vicino perché ce l'ho attaccato, allora lo spento e ho attaccato quello. Oh, l'altro era il Cobra, il primo che stavo usando, conosciva come radio? Quale Cobra? Bello, ma l'ultimo che comprate è quello di Cobra. No, e ce l'ho dunque, ce l'ho, è in 3 anni ce l'ho il Cobra, non ne parlo più di questo tipo, il 200 GT di X, capito, il 200, è bello, bello, c'è un frontalino tutto illuminato, c'è uno smitter grande, quadrato, è veramente bello, tutto illuminato, È roba americana, magari si facciano, gli si che apparecchi, ti dico burulampa perché non te ne aiuta nessuno, vanno da un punto all'altro, non li mandano i peti perché sono gelosi, li aggiustano solo loro. Raccolta e vado di guaccia, di non affermi, di non accolta, dico sempre cosa. Me l'hanno fatto pagare un beccaro. Ho visto in internet l'ultimo del Cobra, sono 1000 veramente. Però qua non ce l'hanno, non ne hanno. Questo me l'aveva venuto Negrini. 4,50, ma 3 o 4 anni fa era. Però come vedo che fanno bene, però c'è un certo fatto di città, In AM? No, il Cobra c'è 100 fatti di città, in banda. Sì, in AM mi sembra che c'è un 35 o 40, una cosa del genere. Però in banda sono 100 fatti. C'è un coso dietro, quante grande l'apparecchio e il dissipatore. Sì, fanno dei bei apparecchi in America, senza ombra di dubbio, Jean-Marie. Però è sempre quella la ragione, è sempre quella. Il fatto che se ti si rompono non te li aggiustano, io ho fatto la stessa una spesa come la tua, è superiore anche, quando ho preso il 4 l'S980, che è il modello superiore all'S9, e già speso €500, non è che sia una cazzata, 490, 98, una cosa del genere. io stavo preso del 98, HP, stavo prendendo, dopo ci ho ripensato, cazzo, oh, 635 dollari, mi sa, 635 dollari, cazzo. La buia di insomma che me lo fate fare, cosa ne fai, non ne fai niente. Però l'ho lasciato. E da basta adesso. Non conviene più, ecco, non conviene più a acquistare niente, quindi tenersi questi che c'hai e basta, boh. Tanto non vale più la pena. Ma infatti. No, io ho tre stazioni. Tre stazioni complete con Rosmet e tutto l'altro. Alimentatore, cioè, tre piani e tre stazioni complete diverse, diversi microfoni, diversi radici, e va bene così, non ne devi avere mille. Poi c'è quello che mette in macchina e un altro portatile e toccai, anzi da giubinte e truppo. Io c'ho ancora tre di Mario, ne ho ancora io, non ne faccio niente, no. Però ho il magazzino che sì, ogni tanto non devo fare la giusta, ma che cosa? La sento e rivolgica lì un po' carino, ma non è fatto, c'ho quello che mi sono fatto aggiustare, che il 450, ragazzi, è un peccato. Peccato poi non me l'hanno aggiustato bene, capito? Per cui ci voleva, dicono loro che ci voleva il display nuovo, certo, lì c'è costava una marca di quattrini, lì c'è usato così, già va bene a me, è perfetto, per cui lo lascio così. Lo lascio così perché la frequenza esce, però con la manopolina da un accento il canale della memoria non. Con la manopolina vanno, però deve uscire i numeri da un accento, invece rimangono sempre 8.9 e 9.8, boh. E magari non succede niente, però prima ragazzi. Tiravo la polina e mettevo il canale che volevo e me lo segnava già il numero del canale. La frequenza non è perfetta. Solo che non funziona quello lì. E il resto, da tutto quel colpo che ha preso. E vabbè, io quello lì manco lo uso, quello della memoria, ce l'ho, non ne uso. Io uso il monopolone, con la frequenza, non ne uso di altre cose. E mi trovo bene, dai. Basta sapere memorizzare le frequenze, sai tutto. No, il tuo è diverso, perché il canale c'è che vuole una mappola grande, ho capito? Mentre invece 450 è diverso, è solo per l'HF, capito? Per la... lì puoi cercare i canali anche sullo... FOA, però questo c'ha la partecipata, c'ha la manopola della memoria separata, capito? Mentre invece 440 c'è la direttamente la manopola grande, capito? Perché a memorizzarlo e così. Non è che ci vuole tanto, no? A memorizzare quelle del 440, per cui va benissimo. Comunque va per il gol, troppo bello, va bene che si è tenuto bene, vai. No, ma ti stai sbagliando, la manopolina delle memorie ce l'ha anche 140, non ce l'ha solo 440, a quanto so io. Sì, 140 ce l'ha il 680. Sì, ma le 4.40, nei canali tutti li cerchi sempre su WFO della memoria dalla manopola centrale, manopola grande e basta, capito? Mentre invece 4.50 c'è una manopola separata, ce l'ha. Lo puoi cercare dalla quella manopolina piccola oppure la manopola grande, capito? 140. 4.50. sì, ma anche il 140 ce l'ha Gianmari, capisci, a me c'ha le memorie, da una parte una monopolina piccola e dall'altra c'è il manopone che lo puoi cercare con la frequenza, capito? Solo che le memorie del 440, forse del 430 pure, sono di più, invece che essere 10 per dire sono 100. I canali? Le memorie. Puoi memorizzare 10 canali per dire, invece che 100 come il 440. Adesso il 440 è 100 canali, 100 canali puoi memorizzare, sì. Ce l'ho il 140, il 4, no, il 440 c'ho io, cioè il 440 io. Sì. Cioè il 440 infatti è, posso memorizzare il 100 canali, dai. Quello che ti hanno rovinato in viaggio, qual è il 440? A me? Quello che ti hanno rovinato nel viaggio, che apparato è il 440? No, oh, qual è il 450, ragazzi? 450 è... ne fa due del 440, del 450. C'è un computer perfetto, ragazzi, del 450, se lo vedi, caspita. È un bombone, ha poco di maledizione, ragazzi. E il 450 è bello veramente, andrà perfetto, un bombo era, un bombo. C'ha tutto, ma tutto, sai cosa vuol dire tutto? Puoi memorizzare sempre il 100 canale come il 440, no? Sì, però c'ha più cose, capito? Del 440. Avrà più filtri, più... qualche cosina in più, come potente è uguale. Ah, come potente questo è ancora originale, non è stato mai toccato questo, eh. È perfetto, non ho... più di 40 non dà, più di 40 non dà. Lo già che non l'ho mai provato, mai, mai veramente, non ho mai provato. Però più di 40 penso che non ne dia, Cava. Diciamo che quando sono originali danno di meno, però durano di più secondo me, senza essere toccati, è meglio. Io per dire, questo che c'ho io, il Midland, era un 48 Plus che sto usando, si poteva fare a 480 canali, magari si da frutti. C'ho i 40 canali suoi, tutto quanto va bene, tanto in quei canali vai, cosa dimmi vai tutti questi canali? Infatti non ne fai niente, e poi quei canali non c'è quasi mai nessuno, anzi non c'è nessuno, così che non sa averne 400 quando tu ne puoi usare 40 e basta, capito? Solo in questi 40 magari puoi, mi dai, ma posso anche andarci domani con qualcuno, però... e i 40 canali ce ne sono e poi chiacchierare tanto non abbiamo un'idea, per cui capito, è inutile avere tanti canali e poi non li usi perché basta bene quei pochi, vabbè ci sono, però magari usi i 40 canali e gli altri lasci stare, capito, perché infatti è così comunque. Se sono usati bene già, questo mio è un peccato veramente, avere ricevuto quel cocco non mi immaginavo, infatti mi hanno messo anche una manopolina diversa perché hanno piegato l'asse dello squash. Sì, hanno sfasciato la manopolina e appena pure sullo spigolo è schiacciato. E la manopolina originale, vedi, non l'hanno trovata, l'hanno messa una come quella del 440, la grande però, la diciamo dello squash grande, capito? E ma magari si può aggiustare bene, Giovanni, ci vuole solo la persona che si appenta e che te lo faccia. Sì. Ci sono persone che ricostruiscono tutto, fanno, addirittura Gianluca, quello che conosco, se ne aveva preso uno vecchio, messo male proprio, da tutto il coperchio, le ha accoppiato il colore della vernice e l'ha fatto preciso identico. l'ha tutto levigato, fatto, cambiato il vetrino di davanti, fatte le scritte, tutto quanto. Se tu lo vedi sembra un apparecchio nuovo uscendo dalla fabbrica. C'è saputo fare, sì, infatti, ci vuole pazienza, è uno che abbia passione a fare questa cosa, perché sono delle cose delicate, capito? Per cui se li fai bene, devono uscire come nuovo. Questo qua è nuovo, sempre uscendo dalla fabbrica, non c'è nessun graffio, c'è solo quel pezzo all'angolo destro, su in alto e appena schiacciato, ecco, sarà mezzo centimetro e basta, ma non c'è niente. Oh, è sempre coperto qua, anzi prima l'avevo sempre dentro l'armadio, niente. E ogni tanto lo toglievo, magari 5 minuti, lo accendevo, dopo lo spegnevo e ce lo rimettevo. Adesso l'ho buttato fuori perché adesso lo fermo, cosa le faccio? Qua se lo ripiego e basta. Come sequestrato perché non lo usavo più io. Allora si mi è bruciata quel diodo della ricezione, della M. È un diodo rilevatore della M. Quello si chiama così, un diodo rilevatore della M. Perché in FM andava la ricezione, in AM non andava la ricezione, invece SB, USB e CW andava la ricezione, solo in AM non andava la ricezione, era sordo completamente. E che te l'ho fatta con casa, lo potevano fare anche qua, avrei saputo, l'avrei dato a Vittorio, me l'avrebbe messo lui questo diodo. E invece non ho fatto il ballo bene, ho avuto un colpo e per cui me l'ha rovinato di più. Ma senti, ma che funziona bene, va? Ma magari tu te le buci nell'armadio perché all'occhio ti dà fastidio vederlo rovinato. Io ti capisco perché sono lo stesso, io sono un bubignolo con gli apparecchi, con tutto quanto. Se mi vedo un graffetto, io quelli l'altro giorno, cosa mi è successo? I ripiani del mobile sono appoggiati solo, se tu gli dai una ginocchiata, boom, li campa tutto in terra. E mi è successo così, praticamente me ne è uscito da quei piglini che c'era, come l'ho dato un colpo di gioco senza accorgermene, è sceso giù. Ed è caduto praticamente un alimentatore e si è fatto un piccolissimo graffietto. Sono andato subito a giubilare il nero, e gliel'ho fatto. Ebbene, è un punto magari che non si vede niente, nulla, è asciutto perfetto. Perfetto, non si vede nulla. Nel bordo mio, era nel bordo, l'ho messo appena appena di pittura in più, ma non assai, appena appena. Ha riempito tutto bene, ma era un graffettino piccolo, non era niente di cosa, si poteva anche lasciare, però... Io per la mia perfezione sono buvato così e non vendava. Infatti, questo io a questo non posso fare niente, perché la pellice non, il colore non è uscito, è solo schiacciato, perché deve essere plastica questo qua. È plastica leggermente oscura rimane, leggermente però, non è oscuro, è leggermente. Però non è uscito il... schiacciata appena proprio sullo spigolo, capito? Non si nota nemmeno, guardando quindi frontalmente non si nota. Del resto non c'è altro, nulla, non c'è un graffio, nulla, perfetto in tutte le parti, per cui lo lascio così, non vale la pena, capito, a cambiare il frequenzimetro il display nuovo, capito, costa la barca di quattrini, per cui tanto funziona, perché è rimasta solo dell'LC, è rimasta 4 tacchetti illuminati rimangono, basta, non c'è altro, capito? E il resto funziona, funziona tutto, solo rimane accese queste 4 tacchette, capito? Magari si può rimediare anche quello, magari trovi qualcuno che si affetta, già te lo fa. Ma ti stavo dicendo, adesso con che microfono lo stai usando? L'MDP5. col K. No, è con le senove. Sono sempre con le senove. Ma con la senove l'ha attaccato per il 25. E cosa gli ha fatto per attaccarlo? Che a me mi fischia. Ho provato e fischiava di brutto. Bisognava abbassare i bike gain, bisognava abbassare tutto, l'ecco, bike gain e abbassare la potenza, se no ti brucia tutto. No, oh, non ho fatto niente, ho cambiato un filo solo. Quando l'ho comprato l'M5 rimaneva importante, l'ho invertito i fili e perfetto, non ho mai fischiato, mai. A che cosa c'è l'MP5? Adesso c'è quello che stavo usando prima, era il microfono normale. Adesso questo fa, no, mai fischiato. Ma dipende come ce l'ha regolato anche, se tu lo regoli al massimo più fischia anche a te, prova a metterli l'eco e a metterli la potenza al massimo. Ma fischia? Ma non c'è nulla, l'eco non c'è, prova a mettere. No, a mettere l'eco, il cazzo. Adesso vedo se mi ricordo dove è l'eco, perché io l'eco, allora, dunque, dovrebbe essere questo. No, facciamo di ripetizione, non è regolato bene. Probabilmente è anche la potenza che è diversa. Tu c'è il 9, io c'è il 980, quindi la potenza è superiore. Ma comunque, in ogni caso, va bene, sembrava un microfono normale. Prova a aumentare la cosa, il volume. Ma il volume del microfono? Cavaliere, ecco, non si può prendere nulla, Gio Maria, che è troppo veloce. Toglielo completamente, ecco, metti il volume al massimo, a vedere che potenza c'ha. Ecco la ripete. Negativo. Un attimo, il telefono. Via. Hola. Davanti. Ehi, buongiorno, chi è? Giuseppe da Sassari. Giuseppe da Sassari. Ciao, Gio, buongiorno. Beh, capo, perché non mi hai riconosciuto? E dove te la trovi? Non ci vediamo. A casa sono, già. No, ti ho riconosciuto perché ho fatto un passaggio un po' veloce, capito? Buongiorno, allora. E non siete andati già al bar, non siete andati? Preferisco usare quello normale che va bene lo stesso e via. Positivo. No, perché io sono il mio B4, non lo so, perché questo, non sento nessun fischio, tu fischio senti. acqua non c'hai Ecco, io uso l'Ecco con le Senò. Ci mangio, ascoltiamo anche Ecco, allora. Hola, 1, 2, 3, allora ascolta, me lo sto regolando un pochino più alto. Hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, Mikey Gain al massimo, il RAT, adesso sono al massimo, con l'amplificazione del microfono, la fischia. Questo qui no, vabbè, io non ho provato l'elettricità, ho provato un altro tipo di microfono, quello che avevo prima, lo Shure, che è molto più potente di quello lì, probabilmente fischiava per quello. Lo Shure è molto più forte, avevo provato quello lì e poi mi sono reso, invece non è adattabile il microfono amplificato questo qui, perché già c'è la potenza sua e via. Ma va bene così, l'S9 va bene anche col microfono normale, con l'Eco, con una puntina di Eco, come l'ho regolato io, va benissimo. Ho detto, no, no, solo quando fischia, quando noto il coso, l'hanno tracciato, ancora si porta dietro un rumorino. E dipende dalla potenza del microfono anche, tante volte non si adegua l'apparato, e cosa vuoi fare? Non tutte le ciambelle escono col buco. Sì, adesso te lo faccio ascoltare, così mi dici se va bene. Che cosa? Come 300, si porta dietro un rumore, un buco, anche un buco si usa, la finiamo. Il Mikey Gain dell'apparato. Così il bene va, guarda, non innesca lo stesso, di me non mi innesca. E te l'ho detto, questo qua non va bene, cambio, ora 1, 2, 3, cambio, ora. Prova a abbassare il volume del microfono invece, ma si vede. Chiuso. Non c'è niente da fare, sempre lo fa, appena ma lo fa. Cazzo, perché quel microfono avrebbe... sarebbe andato bene per quello fare qui. Guarda, questa se va sempre passato addirittura la luce della tua casa. Allora in quella zona. Positivo. Allora giù, buon Mauro. E poi fate più di cosa, se non la più accorto. Allora, non vedi invece, tutto che vuol dire, grazie, mi sono intrappello, se non c'è un problema. No, ma non era quello il problema. È che mi sono fatto tardi, erano più delle nove. E poi mi sono dimenticato che ero a piedi, poi dovevo salire a Walter. E quindi ho fatto tardi e non sono sceso. Poi ti ho visto, ho acceso, c'avevo anche il telefono spento, un casino. Mi sono collegato che erano le due ieri notte. Avevamo una carriera con Walter. E quindi ho fatto tardi. Capito? E poi l'ho dovuto avvisare, se no te l'avevo avvisato prima, bruciavo lungarlo con Buglioni. Allora, aspetta una volta che stiamo attenuando il computer sul cluster delle radio. Deve venire a configurare, ma infatti lo sto aspettando, infatti lui ha avuto un problema, ha fatto lo temporale ieri notte, capito? Quindi a te nei traverso e balle varie. Adesso si ti è, ho visto, è un casino. Ma comunque c'è una cosa da arrivo, è comitato, c'è una scarica. No, qua sta già scaricando di brutto e c'è un QRM allucinante. La temperatura ha passato di 10 gradi. fuori minimo ce ne saranno 12-13. Cosa ricusa? Il giorno di scorsi 24 gradi c'erano. Fascista, compagno. passaggino qua per salutare. No, aspetta. Allora, forse c'è già, se sa non lo va a fare. Va bene. Mi è meglio così, almeno ci piazza tutto, prima dell'estate, al caldo, un'altra la capisciuta. Non è per tempo, classico. Ti piace tutto, ti finisci tutto, poi usci da quello che hai fatto. Fatto, diciamo, che la parte più grossa l'hai fatta. Quando ti piace questo due anni ancora, usci da cui sei tranquillo e puoi fare quello che vuoi. Sì, ma infatti, altrimenti non ce la faccio più, cioè, tenete conto che dal 93 a oggi io non ho fatto niente, ho camminato con i filari e basta, adesso è ora di finirla, gli altri stanno andando avanti, se rimanere dietro, quindi anche io non ho le antenne che servo. Ma credetemi, no, non lo auguro a nessuno, grande lavoraccio, grande lavoro, la ragione Fabrizio è una cosa allucinante. C'è la salire, scendere, poi io non sono piano basso, salire, ascensore, salire tubi, tornare a scendere, prendi e fai, tira e molla. E accoppiare e fare casino. Adesso sono incasinato all'interno perché stiamo passando tutti i cavi, tutti i fili dei computer e non è proprio bene, mi sta salendo un water, credo che stia cercando un posteggio. Anche mi scende un rumore, lei ci lascia un'idea. Lo so, cioè, ti capisco perché ti ho seguito qualche giorno così, ma fallo così, sei tranquillo. Per l'estate te ne metti lì e non devi fare, non prendere di fatto, vabbè, claro, non puoi stare sempre dietro, capito? Bisogna andare anche un po' alla pari con gli altri. Positivo è caparroccia, capito? Già, così funziona. No, io adesso sto pensando a questo antennino che mi ha fatto quello, che mi ha fatto Alessio. Ma giusto per ascolto, così come ricevitore, te la punti dove ti pare ti piace. E pure per trasmissione la più usata. Ma il rotore mai succederà? Negativo, ancora no. Allora, noi ieri me l'ho tutta bella pulita, sistemata, tutta vulcanizzata, pronta a buttare su, la calata del capo c'è già. Devo solo scendere esclusivamente il capo, un cavo elettrico là, per la 220, per farla girare, basta. Ma non l'hai provata, no? Non l'hai provata, dicevo. No, è smontata, non più vai, esatto, c'ha un radiale 2,25 m l'uno, non ti va a provarla a metterla in macchina piazzata, no? Non la potevo scendere in macchina, capito? Quindi, no, cosa 2,75 m l'uno, so. È così che si fa. 2,75 come di pure. Ma magari, adesso le menti, non è duro. E gli elementi. Eppure quando l'abbiamo ti passa a venire. Positivo. Beh, prendo una parte tra l'altra, capito? E andava, non puoi andare anche per trasmissione. Ma cos'era? Un'antenna di quelle di televisore? Sì, era un'antenna di televisore, capito? Smollati tutti i radiali. È fatta l'antenna, diciamo, obiettivo là. Non dire Massimiliassi gli elementi tre da una parte e tre dall'altra, quindi te lo orecchie. Vabbè, attenzione, il dipolo è al centro, no? C'ha la parte che radia, sono radiali normali, quelle lì, allora tre da una parte e tre dall'altra. Tre elementi, è direttore e radiatore. Tre elementi, sempre tre elementi. E vabbè, io non ho pensato, però non gli ho detto niente. Vabbè, allora mi sono confuso parlando io, va. Comunque, vabbè, tre da una parte e tre dall'altra. Sempre tre elementi, non dire tre da una parte e tre dall'altra, ma sono tre le orecchie. È una direttiva a tre elementi. Naturalmente c'ha tre elementi direttivi e tre elementi direttore e radiatore, ma è sempre tre elementi. È positivo, vabbè, tra le 20, sì. Però che c'è, quella trasmissione fa benissimo qua. Secondo me, per me dovrebbe anche funzionare abbastanza bene, per me, poi non lo so, una volta che, vabbè, io sono anche in una posizione molto strana qua, volevo chiedere, ma per me bisogna metterla un po' in alto, l'altezza come funziona? Quella? Di quella lì. Quella è per i 10 metri, non hai problema, la puoi mettere anche a 1 metro l'altezza, non ha problemi di radiare, capito? È banda unica. Brutta è quando tre elementi, per dire 10, 15 e 20, allora è chiaro che devi darle lo spazio per poter radiare. Quella è una monobanda, quindi non ha problemi, va bene a qualsiasi altezza. No, vabbè, perché io ho già il palo, ho visto che ho messo quella piccolina della VHF, non la tolgo, la lì, e quella la metto sotto la mano, la falo il palo. Quindi se metto un altro paletto da 1 metro, non li batterà l'uglia. Io la grande, te va bene. Te va bene, tu ci riesci a fare un giallo vettore. Non hai problemi, capito? Già va, si blocca? Si blocca. E anche me l'ho detto che già lo sistema lui. Però contro l'avvolgimento non è bruciato niente, quindi sicuramente ci oscillo sull'ingranaggio e quindi vuole ripulito, messo a posto e montato su quel control box che ti ho dato io. E infatti lui stava aspettando il motore, così prima lo prova a terra, così, hai capito? Lo fa girare un po' da una parte, un po' dall'altra, lo smonta, lo ingrassa bene. Ma non è roba, cioè non riguarda che si blocca perché riguarda la parte elettrica, no? È roba di meccanica, di ingranaggio, così. No, perché è venuto un water per un bambino, ci sentiamo tra un attimo. Vabbè, siamo qua, ok. Avanti già. Ehi, vabbè, invece quando la piatti si mette i tiranti, perché. No, lì c'è una bella zona, Massimiliano. Anche a te parte, non ti aspetta da lì, è due bassi. Sì. Ma lo so che è due bassi. Ma io sono la bambina, no? Davvero? E allora? Io non ho attenuato, e stavo ascoltando, cazzo, mi ha inchiolato lo Smith dal DB. Che attenzione, era puntando verso di te la direttiva magari. Cos'è la puntata? Non lo so per la puntata, ma so che mi ha incollato lo Smith. Capito? Stavo ascoltando lui. Non ci ho pensato, a te lo mando invece. Lo so, ma non pensa sempre con l'attenatore. Vabbè. È troppo vicini siete, fate quello, anche se in un'altra frequenza magari è talmente potente che entra. Ma la parola è la stessa frequenza, perché stiamo ascoltando. Ah, nella stessa la frequenza, anche va appunto il baissimo. Stavo ascoltando, capito? Non ci ho pensato. Vabbè, ma comunque già si so fatto quello. Ma ti ha bruciato la bombina dell'antenna? Ah, ho legato la bombina dell'antenna, da 140. Mi ha incollato un coso, un relè. Ah, che cazzo. Vabbè, ma basta prendere quel pulsante, ci si fa. Quello lì è l'attenatore. Cazzo, già lo so. Già lo so che l'attenatore è quello. Ma al momento non ci ho pensato, capito? Andà bene, Veda. Io sto bevendo una birretta fresca. Ma che sura? No. Io ieri sera ho bevuto un po' di vino. Prendo qualcosa a smaltire. Io sto bevendo la birra. Per forza pranzando. Come da giorno lo dice, non è che una birretta, io ho preso queste birrette sono da 1,25 alla fine, c'era un bicchiere di roba, non è una 3 da 3, è un pochino più piccola. quando bevo la birra la bevo mangiando, non ne bevo fuori pasto, è difficile. Qualche volta magari al bar con un amico io gli diamo una birra, ecco, così già capita, però è difficile, non è tanto, non è molto spesso che lo faccio, Ecco! Tanti, grazie amico! Ciao, buongiorno, andiamo a mare? Ha fatto il bagno con l'Eva, però, con l'Eva che impara dallo zio. Ehi, arrasta di tempo, per carità, e grazie, purtroppo non decidiamo noi il tempo, cosa vuoi fare? Se chi c'ha, va giù. Speriamo, capita, ero io ai pantaloncini in casa, in giabatte di mare, in maglietta, pone di torra, la felpa e i pantaloni, per carità. No, no, io già so che pantaloncini ancora, già resisto ancora. Grazie, come ti sta arrivando di radio? Bene, bene, pulito, pulito, liscio, liscio. Una bella radio, la radio è cambiata. Oh, diciamo che ho fatto una modifica al microfono. Oh, sono arrivato proprio pulitissimo e chiara chiara la voce, bella, proprio bella bella. Pagava, va bene, interessante quello che va bene, che sia riuscito nel mio intento. E c'era Gio Maria poco fa, c'era Gio Maria, e poi era andato al telefono, non si è più sentito. A Gio Maria ha volato con il telefono, rimane, ma tu mi fra un quarto d'ora, 20 minuti che torna a entrare. Oh, ha girato cavalli contro cavalli, niente. Allora ne ha discutato, non vedo nessuno. Dipende dall'orario, perché la sera sto lavorando. Io già ti ho chiamato alle 5, ma non hai risposto. Ehi, a quell'orario mi sembra stavo parlando con Gio Maria, poi ha detto è giunta niente, fra un quarto d'ora, 20 minuti già rientrerò. Ha detto vabbè, lo lascia accesa, invece non la sentite, né mezz'ora, né un'ora, ho fatto l'altro, e anche sul 12 non c'era nessuno. E nello spento alle 7 e mezzo, va, una cosa del genere. Che c'è anche il bulldozer, avanti bulldozer. Positivo, ciao Graziano, buongiorno, buona domenica. Buongiorno anche a te, bulldozer, buona domenica anche a te. Ho sentito poc'anzi che ti sia fare in 90 anni. Ma prendi, ma cosa fa bene? Ma poco da parlare qua giù. Io più me la guardo quando esco da casa e giro con la macchina. E più e meno voglia a me ne veni da sabbia, che è tutta parrucca. Grazie a Rucci, non la vedo mai. Vabbè, la vedo e mi si giro la faccia, e gli altri che dico, cosa l'hanno passato, la salsa non passo mai. Sono cazzato la lì, ha diviso di bullone tutto ruggidoso, con i ferri, no, sono cazzato, per vedere quel radiale che me ne erano usciti. Perché li ho recuperati, sono rimasti sul tetto, anche se sono rotti, a quasi all'estremo, non so se si può recuperare, però compro quelle bacchette in alluminio al medico Gio Maria, quando lo faccio. Adesso sono cullori, tutti ruggidosi, ha detto no, avanti, vi farà fine alla moletta e l'occhio. E va bene, lo giuro. A chi vivo uno che la mattina e l'altro che in Italia, se no me ne farai in innanzo. Ha detto, oh no, la capisci, ha sbigliato il dito e mi si sono trovato a parlare. Dalla riso che ancora la sabbi, dall'anno scorso. Ma già cosa fai tu, grazie a potrei comprare bacchette? Ti compareggi il coso, il... il tenditore, quello di ingatto, e mi lo fa misura, varia dura e via. Ah, già ne ho qui di ferro, non anche una mazzata, so che è troppo grosso. Non avevo a tessi, e se no la tagli da sotto, con la mola e tira l'Africa, e compare una nuova. Ehi, dici Gisocco, no, ma guarda che è come è messa, esce bene. Positivo. No, io lo... ce l'ho già sette anni, non è il primo giorno che l'ho piazzato la vita, non sono mai salito a farmi nessun accorgimento, mai. Allora, a me me l'aveva piazzata Antonello il giorno che l'abbiamo, me l'ha comprata lui, tutto mi aveva abbigliato, l'alimentatore, la camera escort, tutto la tutto che aveva fatto. Solo che dalla cosa è partito il tirante e poi io che ne posso un bel vento, ha picchiato il burro in un zumbo. Sentivo, già, io prima secondo me devo notare. Io. Ma l'amato va sempre, grazie. Va sempre l'amato. Ma io lo so cosa faccio adesso, mi compro lì alla Bricoman, come quello che ho comprato in campagna, una sappa di quelle belle prese, mi sembra sono 5 mm, è una dritta, se non il biglio 2, ha un 4 buche stilizzate. Beh, ci arrivo con le mani a lavorarci, se la devo mollare. Anche di questa maniera vivo la cara e solo non fa, se io tagli i dati mi riparo l'antenna in alto. Poi non si può salire soli sul tetto, è sempre meglio salire in due. E se ti cazzo se si muovi il carro, tu cazzo uno ti la mantieni, tu alzi, vedi io devo salire sulla cabina dell'ascensore con la scala. Ci vuole uno che la mantiene e l'altro che sale, non si sa mai che ti si muove il carro che ti va. No, problemi per quello non ne ho, perché il mio è un terrazzone e la gabbistuglia da me è fatta a catramo ed è un terrazzo enorme, salterà a casa e la gabbistuglia, compri, è tutta in piano, devo mettere la scala quella che allunghi, no, quelle di ferro, di soffesanti, che la apri tutta e la allunghi da una parte e dall'altra. Quella ci vuole per arrivare a dove sono i bulloni. Uno, siccome i bulloni io li ho guardati, non bullano neanche se si ammazza, anche se erano acciaio, sono tutti bene di Russia. E allora ci vogliono due scale, uno che la mantiene e uno che taglia i dadi, come li tagli, molli una moletta o appoggia la scala, al filo, e la recupero e scendiamo insieme, capito la scala. E se no, se io vado a salatura e taglio il bullone, me ne farà il nanto. Poi mi ammola la chiave di busso grasso, il nanto. Quando li voglio mollare, la chiave mollata va a baciare l'antenna e quando la chiave mollata, ne mollato subito anche per il grasso, con frisco. Quando è mollato e ha già baciato l'antenna, da poi puoi travagliare bene. Ma anche io gliel'avevo messo, capito, la volta l'abbiamo piazzata, stava sempre attata di grasso, il cerveccio poi sopra gli ho messo tutto il grasso, però da 20 anni. Allora la dice ce l'ha fatta, no, la mia qui c'era 15 anni, dai, 15 anni. Dunque, poi l'ho già guardato, so che tutti rugginosi, poi vedo tutto bubiciato, miracolo che ancora sono resistenti questi bulloni, perché erano acciaiuti, capi? Se sarebbero stati in ferro erano gli appassuti. Vabbè, e io devo salire lo stesso, grazie, devo fare lo stesso tuo lavoro, devo mettere i radiali nuovi, perché mi si sono troncati due, ma l'antenna è nuova la mia, è tutta rifatta. L'abbiamo scesa da poco, pulita e fatta, solo che i radiali me li hanno truccati di curraccia, a parte di poco di lisci cose in alluminio ma pieno. E io lo stesso, non me l'ha detto Gio Maria, però la voglio spostare più, almeno dopo arrivo io, appena più giù, ecco perché prima mi voglio imbrigliare quelle sappe. Posso 4 buchi, si risacca un poco di insuggimento rapido, mi sciaglio con un poco di sabbia e me le piazzo. Una volta che ho piazzato quella è il tocco tranquillo, anche la mollo, la bacio, la attacco dove metto con le zanche nuove e poi si trova lì a burro, guarda, piccata e il tubo, c'è il tubo innocente in campagna, che è anche più lungo di quello che c'è. schieno per il bisogno, però gli voglio mettere quello, ce l'ho, fino a ruzzaglio lo posso dalla stessa lunghezza di quello. E poi puoi lavorarci bene, capito? Di questa maniera è un casino. No, io già la posso abbassare, ma lo bullone è di chi si non è innocente di quelli. Di quelli allungabili, dai, te li scoppici. Ma ce l'ho 10 anni ed è sempre lucido, Non si è bello zingato, Non si è avvicinito nulla. Già lo so come sono quelli tele, ma sono un lamierino e sono sottilino che poi vento le bomba, mi capita se ne bomba di vento. Una di aiuto sulla mantini mi ripetrà dei nuovi. Altre volte la pigiava, si salenta la iattura, dice speriamo in occupiega, le ripreggiava. Me lo dovuta mantenere per mezz'ora, sono tutti bugiti, si vede un vento allucinante. E ma che qua tira, perché sono dolce a male, grazie. È che io, diciamo, sono stato previdente, diciamo, non fu un previdente. Ha occupato un tubo di chissà da 8 metri, non ha già stato un 5, un altro di 3, l'ha già stato di 30, come anima. E da poi 30 ancora l'ha giù busso, il rubito gli avanzava un palo di chissà innocenti all'interno, un pezzo, là il terminale, là. E gli ho attaccato l'antenna. Ah, no, ma quando buoni sono rotto con un occettino, non rubiccia. E mamma mi si è piegato perché è un tirante che tirava da una parte, era lunghissimo per arrivare alla sugabbo, no, della gabbicuglia. E però sfregava leggermente nel bordo della cabina dell'ascensore, nella casetta. Sulle oggi, sulle domani, poi ho fatto giù, gli altri tre ce li ho. Sono tutti rugginosi, ma già il cavetto acciaiolo è già teni. E allora me l'ha piegata così, dopo si è rotto quel tirante, perché era un bel loco. A chi ha attaccato la cabina? Ai ghibi dove fregava, è troppo alto, comprendi, anche la capisciuria ai ghibi non fate perché è scivolo, io un giorno ci ho provato, sono arrivato a un pezzo, cazzo si sono gulicicato, sono arrivato quasi alla fine, capito, cazzo me l'ho stampato, e allora 3 anni così sono arrivato fino al punto più basso e ho brincato in atto la capisciuria addosso. E se noi no che sei grossi, e c'è proprio gli scarponi grossi mi, con il fondo a carro armato, saponi Maria. Mamma mia, devo coprire, io ci ho messo una pompa, grazie, per non raschiare il tirante, anche a me faceva la stessa cosa, ci ho messo una pompa di gomma grossa, quando tocca il tirante scorre dentro e non si sfila. Ma io non ci ho pensato la volta l'abbiamo piazzata, capito? Se no gliel'avrei messo un pezzo di bomba, di gruzzi, un pezzo di cubaccioni, capito? Magari mezzo boccato, ma io va pensato. Se mi è durato anni e anni, dopo me ne sono accorto che l'ho vista giusto leggermente pigiata, non si vedeva l'udirante. Ha detto, grazie, o sei fasciato, qualche cosa, sono cansato ed era spezzato. E allora ha detto, e che basta, ma no, avanno me una e poi mano a mano mi sta andando e piegando sempre il tubo, capito? Oh, grazie, io devo salutare, ho fatto mio nipote, là. Ci sentiamo, buona giornata, ci sentiamo più tardi magari. Ehi, vabbè, cazzo devo fare cosa, non vedevo preparare, ok, alla prossima, lo lascio acceso, buona domenica, buon proseguimento, buon pranzo, ciao! Ma grazie, ciao, salutami tutta la famiglia e buon proseguimento anche a te. Ciao! Io sto facendo cosa?